Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Siamo qui, è sabato, c'è Mebius. Finalmente, buonasera Federico, buonasera a tutti. Allora, i titoli di oggi. Allora, partiamo svelando un segreto. Com'è possibile che le sonde spaziali si facciano i selfie e non si veda lo stick, cioè esatto, il bastoncino? E poi parleremo di un libro, un racconto di Bruno Arpaia, parte dalla situazione odierna, ci proietta non tanto lontano, una situazione molto difficile per il pianeta. E poi un altro libro con un tema molto caldo e altrettanto tosto, e parleremo di fecondazione eterologa, di utero in affitto, anche dal punto di vista evoluzionistico. Incominciamo. Partiamo. No, adesso risolviamo un grande interrogativo. Ci sono in giro un sacco di foto, le hai viste? Un sacco di selfie. Un sacco di selfie di sonde, sì, che si sono fatte il selfie. Sì, quindi selfie proprio appunto, nel vero senso della parola, allora, con dietro il proprio pianeta di riferimento, diciamo, o pianeta o quello che è astro di riferimento. Marte, ecco. Ecco, sì, ma io ne ho una qua anche di Saturno, guarda, esatto, se ne possono... Allora, il selfie, per quando una foto di selfie si deve vedere... Lo stick, qualcosa, il bastoncino, un braccio, ecco, in queste foto che hanno come didascalia un selfie della sonda, non si sembra vede. Quasi che abbiano chiesto a qualcuno che passava di farsi esatto, una foto. Sarebbe importante, no? Sapere se le cose vanno così. Stefano Dalla Casa è qui con noi questa sera. Buonasera Dalla Casa. Buonasera. Autore insieme a Paolo Bellutta di un saggio breve, denso, edito da Zanichelli, Autisti Marziani. Sono quelli che guidano... Cui racconta le esperienze di questi driver, di rover. Ecco. Di rover da lontano. Allora, Dalla Casa, anche lei sa perfettamente di queste fotografie, selfie, ma cos'è? Ci sono i marziani allora? Diciamo che la spiegazione forse più interessante è che queste foto che noi vediamo sono delle foto in realtà dei collage. Quindi sfruttando il braccio robotico di Curiosity vengono fatte una serie di foto da diverse posizioni, è un lavoro molto laborioso, sono decine di foto a seconda della complessità e della regione che si vuole prendere del pianeta più o meno grande, e poi queste foto vengono cucite assieme sulla Terra in modo da dare un'immagine completa. Nel processo ovviamente il braccio robotico va a scomparire. Quindi sono photoshoppate, insomma. Sono photoshoppate. Cioè sono incollate insieme vari fotogrammi, e vabbè, questo ci pare anche chiaro, normale, perché ovviamente pixel, per avere una visione anche più ampia. Però questa che viene cancellato lo stick, insomma, adesso lo chiamiamo stick, però insomma il braccione robotico, perché? Cioè, perché? Sarebbe comunque realistico. Diventa difficile nel momento in cui dobbiamo riprendere tutto il rover e spostando la fotocamera da tante posizioni, alla fine il braccio è inevitabile che scompaia, anche se si vede in alcune foto una specie di frammento che si può identificare come il braccio, però sì, appunto, essendo molte di queste foto sono anche abbastanza deformate, sembra rotondeggianti eccetera, deriva proprio da questo. L'immagine, lo stick, se ci fosse un braccio molto più lungo sarebbe molto più facile e si vedrebbe e si vedrebbe il braccio. Invece in questo è l'unico modo, ovviamente la fotocamera non è stata progettata proprio con questo scopo, però hanno scoperto una volta su Marte che si poteva creare questa immagine molto interessante che piace molto anche a chi segue le avventure di Curiosity, e quindi ogni tanto ci inviano questi selfie. Lei può procurarci una foto con ecco con gli braccio. Originali, infatti mi stavo chiedendo che fine fanno? Allora, tutto quello che viene fotografato da NASA è pubblico, quindi si trovano anche i veri selfie, i file, no, si trovano i collage, si trovano le foto singole. Le cerchiamo. Stefano Dalla Casa, grazie, autore insieme a Bellutta di Autisti Marziani. Grazie Dalla Casa, buon grazie lavoro. Grazie a voi, buonasera. Qualcosa là fuori, però qui dentro invece in trasmissione c'è Bruno Arpaia. Buonasera Arpaia. Buonasera a voi. Ci diamo del tu perché tu sei uno scrittore, ne abbiamo parlato altre volte dei tuoi romanzi, però sei anche un... scrivi un sacco di articoli su cose di scienza, quindi ti consideriamo anche un po' un nostro collega. E siamo assolutamente colleghi, figurati. Qualcosa, virgola, là fuori è il titolo del tuo ultimo romanzo raccontone. È una vicenda che è quanto mai ancorata a tutto quello che si sta vivendo con una serie di, svariata di problemi e il tema centrale è il problema di una alterazione forte della situazione ambientale, no? Con una criticità che purtroppo diventa tosta, no? Forte. Certo. Questo è un po' il... Non voglio dire più, magari tu puoi dire qualcosa. Possiamo dire che insomma il romanzo racconta la storia di una grande migrazione fra qualche decennio dall'Italia verso la Scandinavia, che è diventata l'unico, uno dei pochi, insomma, insieme alle nazioni attorno al circolo polare artico, uno dei luoghi più favorevoli alla vita umana, perché per il resto gli scenari nei quali si muovono i miei personaggi sono scenari terribili che derivano dal, diciamo, dallo studio dei rapporti scientifici sul cambiamento climatico, esaminati nel senso che se non si farà nulla, quelli sono gli scenari più che possibili, probabili che ci troveremo di fronte, cioè un scenario di desertificazione quasi totale dell'Italia e dell'Europa continentale, innalzamento di parecchi metri del mare e via di questo passo. Naturalmente in questa migrazione si incontrano tutte le assolutamente verosimili situazioni pessime in cui ci si può trovare. Per esempio gli svizzeri non sono molto contenti che passino orde di persone perché temono invasioni del loro territorio. Però la cosa che a me sembra più interessante e difficile da costruire, sei stato bravo in questa operazione, è il fatto che tu continui a parlare di cose, di nomi, di oggetti, di funzioni, di processi che sono estremamente concreti, cioè tu hai messo dentro tutto quello che abbiamo oggi, compreso anche problemi d'altra natura, no? Per esempio come il terrorismo, e hai legato tutti questi fattori e li hai spostati avanti di un 40 anni. Quindi ci ritroviamo effettivamente non con il solito racconto di fantascienza che inventa tutto, ma qui c'è una proiezione. Sì, perché come dire, qualche critico ha detto che ho fatto una contemporaneizzazione del futuro. Esatto. Nel senso che ho anche dato per eventi che stanno già accadendo, per esempio la siccità in California, come eventi che succederanno tra 20, 30, 40 anni, cioè ci si muove in un futuro che, ripeto, è estremamente probabile, purtroppo, se sottolineo se non si farà nulla. Quanto alla concretezza, ti ringrazio, ma questo è un romanzo, quindi racconta di persone, di rapporti umani, racconta di difficoltà di uomini e donne messi in una situazione estrema per vedere che cosa succede. Se di solito nelle situazioni estreme gli uomini e le donne traggono, cioè danno il meglio o il peggio di sé. Il mio protagonista, che è un neuroscienziato italiano, che poi va a Stanford, vede da Stanford il declino del mondo, il declino non soltanto dal punto di vista climatico, quindi con tutti i problemi che questo comporta, perché per noi è spesso difficile associare il fatto che il cambiamento climatico e il riscaldamento globale viene inevitabilmente accompagnato da aumento della violenza, problemi sociali, svuotamento e perfino implosione delle democrazie. Edito da Guanda, Qualcosa là fuori, scritto da Bruno Arpaia, che saluto. Ciao Bruno. Grazie a tutti. Ci dicono che ci sono delle notizie sul traffico. Curioso. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Temporary Mother, madre temporanea, ma in realtà no, Chiara rimanda a quel temporary, rimanda a quei negozi. Sì, temporary shop. Shop, esatto, che nascono per uno scopo preciso commerciale, magari stanno aperti quattro mesi. Sì, forse il sottotitolo rende esattamente il tema, utero in affitto e mercato dei figli. E qui con noi Marina Terragni che l'ha scritto. Ciao Marina. Ciao a tutti. Benvenuta. Giornalista da tempo impegnata su tematiche di genere in particolare e hai scritto Temporary Mother. Abbiamo anche Telmo Pievani qui con noi. Ciao Telmo. Ciao, grazie dell'invito. Pure tu collega, anzi collega anche radiofonico. Collega anche radiofonico perché è partita da poco la trasmissione estiva che va in onda appunto domenica alle 9. Però qui tu sei nella figura di docente di filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova, che è la prima cattedra che ha questa impostazione, no, in Italia. Esattamente, si riflette sui temi teorici legati alle scienze della vita, come quello di oggi. Esatto. Come quello di oggi, che noi cercheremo di connettere a quel fenomeno, probabilmente è il fenomeno più complesso che esista, che è quello appunto dell'evoluzionismo. Però incominciamo da Marina. Allora, in questo testo, in questo saggio, bello, breve, pieno di dati e abbastanza intenso come lettura, lascia certamente un segno, tu affronti questo problema dell'utero in affitto, quindi procurarsi figli in questo modo e puoi darci, diciamo, 3-4 focus centrali di questo tuo percorso che ci manifestano, come tu vedi, molto critica, diciamo, questa realtà. Allora, apro sull'evoluzionismo, chiudo sull'evoluzionismo per dire che nel 2007 avevo scritto un libro che si chiamava La scomparsa delle donne e questo è un passaggio abbastanza decisivo. Parlo dal punto di vista delle cosiddette femministe resistenti. Noi non siamo ad Inolfi, per capirci, cioè non siamo contro le famiglie omogenitoriali, diciamo sì all'adozione per tutti, diciamo sì alla stepchild tombale, però teniamo duro su principi che più che leggi naturali, io ho voluto chiamare principi cosmologici, riferendomi a Antigone, cioè che esistono da prima che esistessero gli dèi, ecco, e secondo me qui rientriamo in questo scenario. C'era questa giurista israeliana che era molto possibilista sull'utero in affitto e lei stessa, che negli anni Ottanta si era detta pro, non avrebbe però mai immaginato, come ha ammesso, il prodursi di un biomercato come quello che vediamo oggi, che siamo sui 3 miliardi di euro a essere ottimisti, con un potenziale enorme. Marina, tu hai dato 3 miliardi di euro. Dai dati, non magari facile da recuperare, è quello che oggi, uso questa tremenda parola tra virgolette, si investe nel procurarsi uteri sostanzialmente. Sì, è un dato ampiamente sottostimato perché ecco, come potete immaginare non è una realtà perfettamente censibile. La cosa che stupisce un po' è che quelli che lottano contro Big Pharma, le multinazionali del cibo, la riduzione della biodiversità, gli OGM, di fronte a questa roba si fermano e pensano che in qualche modo non sia non so, politicamente corretto dire qualcosa su questa vicenda mostruosa, che è un mercato che entra a gamba tesa nella relazione più intima che tutti sperimentiamo, tutti come figli e buona parte delle donne come madri, talmente intima che qui il due è difficile per un lungo tempo distinguerlo dall'uno, anche dopo la gravidanza. Il fatto che le relazioni, come diceva Alexander Langer, sono tutto ciò che ci resta ad arginare l'unico moto che ci è consentito dal neoliberismo, cioè il consumo, sono l'antidoto del consumo. E quindi se il mercato entra a gamba tesa anche qui, direi che siamo a un punto di svolta. Parlando dal punto di vista evoluzionistico, e qui chiudo questa brevissima introduzione, si tratta, come dire, dell'attacco definitivo alla differenza sessuale, cioè una reduzione a unum definitiva, e questo unum è un neutro che è più maschile che femminile, l'indifferenziato sessuale è più maschio che femmina. Si tratta di capire se dal punto di vista evolutivo sia una buona idea e se dal punto di vista del singolo questa scelta sia produttrice, se non di maggiore felicità, quantomeno di riduzione di infelicità. Ecco, quindi su questo magari adesso sentiamo anche il parere di Telmo, però mi pare che si evince subito dalle prime pagine del libro appunto la tua posizione, in cui certamente si fa tutto un discorso economico di cui abbiamo appunto sentito le cifre, ma soprattutto un discorso non tanto etico quanto del ridurre questa cosa ad un consumismo in qualche modo, per cui appunto il corpo della donna è utilizzato come macchina per soldi, ecco, detto in maniera veramente brutale. Esatto. Mezzo di produzione è proprio e di profitto, perché poi le donne vanno pochissimi soldi, per esempio dei canonici $150,000 di una gravidanza in California, alla donna ne vanno 25,000-30,000, dei 30,000 di queste surrogate cambogiane loro ne percepiscono, anzi i loro mariti, fratelli, papponi, scusate l'espressione, ne percepiscono 5,000, ecco. Ecco che poi giustamente, come hai detto tu, hai fatto due esempi ovviamente estremi, però è tutto un discorso da approfondire su quelli che sono i paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, che ha delle regole e che forse in qualche modo potremmo far rientrare in regole etiche, tra virgolette, e poi alcuni paesi in cui ovviamente questo diventa quasi un traffico. Esatto, in Nigeria ci sono addirittura le baby farm dove prendono ragazzine nei villaggi, le mettono incinte, poi queste ragazzine spariscono, i figli spariscono, non si sa più niente, è una cosa. Quindi però io direi, per fare un discorso, perché sulla tratta di carne umana e sulla schiavitù e su questo diciamo siamo tutti d'accordo, per fare un discorso invece più laico e sensato è meglio stare su quei paesi dove, come in California e in Canada, c'è una contrattualizzazione, diciamo i minimi diritti civili vengono mantenuti, diciamo, in qualche modo. È tutto tra virgolette in queste parole che usiamo. Telmo, allora, noi ovviamente siamo interessati come trasmissione a questo aspetto evoluzionistico perché ci interessa anche vedere il punto di vista più scientifico su una tematica come questa. Allora, nelle storie delle specie viventi c'è sempre una cosa fatta bene e una scemata, cioè delle cose che le specie fanno e che effettivamente servono alla loro sopravvivenza, della loro tribù, della loro comunità, e poi delle cretinate. Tipica, per esempio, nelle specie è quando predano tutto, mangiano, crescono e poi a un certo momento si trovano con un habitat spogliato di risorse e boom, precipitano. E oltretutto la morte delle specie in questo caso è addirittura rapidissima. La specie umana, indubbiamente, non bisogna essere, diciamo, ecologisti, non fondamentalisti, la specie umana ha chiaramente nel suo agire anche tutti gli strumenti culturali. Sarebbe scemo che dicessimo, ecco, ci siamo allontanati dai canguri e allora siamo infelici. Noi come specie dobbiamo considerare che le cose che facciamo sono appunto anche dettate dall'uso della nostra intelligenza. Però sappiamo, per esempio, che esserci infilati in questo guaio della CO2 non è stata una grande idea. Allora, invece, su un tema come questo, secondo te c'è un problema di criticità evoluzionistica, nel senso che entriamo, superiamo una soglia che non dovrebbe essere superata, come è quella dei guai ambientali, che è estremamente pericolosa? Direi di sì, ma proverei a inquadrarlo molto brevemente in quello che sta succedendo, proprio rispetto anche agli esempi che facevi tu. Se io guardo la storia di Homo sapiens con uno sguardo un po' da lontano, un po' appunto evoluzionistico, tu vedi che fin dall'inizio la nostra specie è caratterizzata da una grande ambivalenza dei comportamenti, proprio da un'ambiguità. Siamo stati fin dall'inizio molto creativi, perché non dobbiamo nasconderci il successo straordinario della creatività umana, delle invenzioni umane che ci hanno fatto fare cose meravigliose. Oggi un essere umano, maschio o femmina che sia, con lo stesso cervello, sostanzialmente la stessa fisiologia di 50,000 anni fa, va sulla Luna. Però quella stessa specie è capace anche fin dall'inizio, tra l'altro, perché io non ho mai creduto in l'età dell'oro precedente. È vero, è vero. vero. È sempre stata molto invasiva, non c'è dubbio. Homo sapiens appena esce dall'Africa fa fuori tutte le altre specie umane, arriva in Australia e nell'America, fa fuori decine di specie di mammiferi, se li ha mangiati tutti. Cioè, noi abbiamo dentro la nostra storia evolutiva questa ambivalenza. È chiaro che oggi questo tema ha una radicalità incredibile, perché va a toccare anche degli equilibri come quelli tra i generi, e in particolare va a lavorare sul tema delicatissimo della riproduzione, e si aprono degli scenari nuovi. Secondo me il libro di Marina ha questo grande merito, che ci fa vedere come queste tecnologie in molti casi pongono fine alle relazioni, no? Impoveriscono le relazioni, che mi pare uno dei temi chiave del libro, sì. Sostituite da appunto contratti, denaro e così via. Però il tema che io rilancio a Marina è che la natura umana evolve, no? Perché evoluzione vuol dire cambiamento, quindi non dobbiamo pensare di venire da una storia evolutiva che si è fermata, sta succedendo anche adesso, noi anche adesso stiamo cambiando, e se tu guardi le tecnologie che abbiamo oggi e che avremo fra qualche anno sulla riproduzione, sono vertiginose. Si parla di gravidanze extracorporee, sì. Si parla di riprogrammazione cellulare che ti permetterà di ricavare gameti praticamente dove vuoi. Abbiamo le diagnosi preimpianto insieme con le quali si potrà fare il genome editing addirittura, no? Fare la correzione di bozze del genoma. Vengono le vertigini, perché sono delle tecnologie di una potenzialità, di una portata, che diventa difficile capire come gestirle, e io aggiungerei con quali categorie, no, le gestiamo. E secondo me, se posso invece fare una provocazione a Marina, secondo me il richiamo alla naturalità di per sé, cioè rimaniamo naturali, torniamo alla naturalità, secondo me non regge fino in fondo. Cioè, che cosa vuol dire oggi essere naturali? Cosa vuol dire essere dei maschi, essere delle femmine? Io ci ho lavorato un po' su questo, e mi pare che anche il definire il maschio e la femmina come delle essenze forse sia un po' una semplificazione. Io le vedo come popolazioni piene di diversità, no? Caleidoscopiche, fatte di individui. Quindi dovremmo, diciamo, evolvere anche nel pensiero, in come ci percepiamo. Nel come ci interpretiamo, tu dici. Diciamo che sono degli avanzamenti tecnologici così potenti e così veloci, no? Perché poi sono velocissimi, sono cose che sono successe, queste qui delle scienze della vita sono successe, se ci pensate bene, negli ultimi 15-20 anni, perché basta andare indietro di 20 anni, e 20 anni fa stavamo ancora parlando se si riusciva o meno a fare il completamento del genoma umano. Sì, ci sono stati degli avanzamenti di una velocità pazzeschi, quindi secondo me pongono delle grandi domande: che tipo di umanità vogliamo noi? Le vogliamo dominata dal mercato, dalle relazioni? A queste tecnologie chi avrà accesso veramente? Vogliamo che abbia accesso soltanto pochi privilegiati, o vogliamo farne dei beni comuni? Per esempio, nel mio campo c'è tutto un movimento di scienziati che dicono: d'ora in poi decidiamo che i frutti delle biotecnologie li trattiamo come dei beni comuni, cioè come l'acqua, come le risorse fondamentali, che non devono essere appannaggio di pochi. Quindi secondo me Marina va a toccare un nervo scoperto di un tema grandissimo, secondo me, dei prossimi anni. Infatti questa provocazione, Marina, cosa ne pensi? Sei d'accordo? Qui il bene comune è il corpo femminile, e allora su questo bisognerebbe un attimo che facciamo una riflessione. L'altra cosa è che direi che gli squilibri a cui faceva riferimento Federico in introduzione, dal mio punto di vista, sono riconducibili a un troppo uomini, a un eccesso di maschile. Allora, ci fermiamo qui. Diciamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che sul blog c'è la versione più lunga di questa intervista, perché effettivamente c'è spazio, anzi potremo andare avanti per parecchio tempo. Ricordiamo il libro di Marina Terragni, Temporary Mother, e la casa editrice è Wanda e-Publishing. Grazie Marina Terragni e grazie Telmo Pivani. Saluti finali e buona settimana. A tutti e a tutte, certamente. Ricordatevi il nostro blog, che trovate in home page tra i blog di Radio 24, www.radio24.it. Ciao a tutti. A prestissimo.